giocare all'amore con bambine spensierate, stare seduti a parlare per ore di musica e vecchi film, quando eravamo chi, quando eravamo chi, quando eravamo senza timore, più liberi di così, a leggere libri, a studiare parole in giornate di piena estate, uscire fuori e scappare da muri impregnati dai DDT, quando eravamo chi. Giochi che si sciolgono sotto al sole, e a noi non resta soltanto ricordarli in onore dei bei momenti che ci han fatto tacere, arrossire, che sì, quando svanisce il gioco inizia il dolore. Che ti prende, che ti fa male, e che rimane soltanto alla fine un cuore sbiadito di un bel dipinto che non è mai stato finito. Sole al mare, hey.